Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. In questa puntata del Quadrifoglio facciamo conoscenza con un'organizzazione forse ancora poco conosciuta, ma che sta promuovendo interessanti iniziative nel territorio veneto, la Fondazione Sorella Natura. Nata nel 1992, ha sede ad Assisi e si ispira agli ideali francescani, e a gennaio ha promosso un interessante convegno per la salvaguardia della zona umida della Laguna di Venezia, ma ha anche dato una sorta di certificazione etico-ambientale alla Coldiretti Veneto per la battaglia contro l'innalzamento dei livelli di aflatossine nel mais. Per conoscere meglio questa realtà abbiamo ospite Giusy Vianello, che è un po' la coordinatrice per il Veneto di questa fondazione, che in realtà è nazionale. Benvenuta Giusy intanto. Grazie e un saluto a tutti. La fondazione è nazionale, però ha delle delegazioni regionali e noi della delegazione Veneto siamo forse la prima delegazione che ha operato a livello regionale con la sottoscrizione della Carta deontologica dello sviluppo sostenibile proprio con Regione Veneto nel 97. Chi siete e che cosa fate come fondazione? Qual è lo scopo della vostra attività? Allora, la fondazione nasce con ispirazione francescana, quindi nasce ad Assisi. È una fondazione, inizialmente era un'associazione, ora da molti anni è una fondazione che ha soprattutto l'obiettivo di divulgare la cultura della tutela e della salvaguardia dell'ambiente e di promuovere progetti di educazione e di formazione ambientale. Quindi operate nel Veneto da parecchi anni? Ecco, nel Veneto operiamo da molti anni e diciamo che a seguito della sottoscrizione della Carta deontologica abbiamo realizzato tutta una serie di progetti di educazione ambientale rivolti sia alla formazione dei formatori, cioè dei docenti, sia proprio più squisitamente rivolti ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori di tutto il territorio regionale. Una per tutte, proprio a seguito della sottoscrizione della Carta, abbiamo fatto un grandissimo progetto in ambito di educazione ambientale sulla questione dei rifiuti, che si è chiamato Rifiutiamo, no, Ricicliamo. Ed è un progetto che è partito proprio dalla formazione dei formatori, quindi dei docenti di tutte le 7 province, che poi questa formazione è stata trasformata in educazione ambientale in tutti i livelli scolastici. Era affidato anche un lavoro di concorso con la creazione di oggetti derivati dai rifiuti. Siamo alla fine degli anni 90, quindi in un momento molto caldo, diciamo, di questa problematica che comunque esiste ancora, e con questi lavori dei ragazzi siamo stati anche in due bellissime realtà che sono la stazione di Venezia e la stazione di Verona, con l'esposizione di questi lavori che erano pervenuti dalle scuole del Veneto. Di questi ragazzi. Senta, sul vostro sito internet ho visto che avete anche tra i vostri documenti fondamentali un decalogo della saggia ecologia. Questo è proprio il documento fondativo. Si tratta di 10 regole per un rapporto uomo-natura, naturalmente ispirato all'insegnamento di San Francesco d'Assisi. Quindi la natura per noi è creato. E diciamo che queste 10 regole alla fine nascono dall'idea di fornire non delle imposizioni ma degli spunti di riflessione nel nome di Francesco per il rapporto che ognuno di noi può avere con la natura, quella piccola intorno a casa, diciamo quella del proprio territorio, per poi naturalmente guardare molto più in là quella del pianeta. E addirittura il 10° punto di questo decalogo è aperto, cioè chiediamo a tutti di suggerirlo grazie alla propria esperienza. Ecco, senta, voi avete un sito internet, credo, sul quale si possono trovare anche questi documenti e le vostre iniziative, possiamo ricordarlo? C'è tutto, www.sorellanatura.org, e in questo sito c'è anche una link dedicata proprio alla delegazione nel Veneto, nella quale si trovano ovviamente le ultime attività, e quindi ci sono già alcune notizie che riguardano l'ultimo lavoro, cioè il convegno che abbiamo organizzato l'11 gennaio all'auditorium della provincia di Venezia, in collaborazione con la provincia di Venezia, che era sulla Laguna di Venezia come zona umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Ci fermiamo solamente un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. A me mi piaci così, senza teatralità, senza vestiti di scena, come ti ha fatto mamma. A me mi piaci così, comprese le tue mani, compresi tutti i tuoi difetti e le tue vecchie zie. Giancarlo è un amico e mi ripete che sei tu la donna ideale e ti vorrebbe per sé. A me mi piace così, Giancarlo ha proprio ragione, sei tu la donna ideale. Sei ideale per me. Così, la frase forse è banale, è anche un po' sgrammaticata, ma si riscatta al finale. A me mi piace così, sono un duro ma vero, tra un mese massimo, tra un anno, io ti sposerò. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo presentando la Fondazione Sorella Natura e ne stiamo parlando con la coordinatrice veneta Giusi Vianello. Ci siamo interrotti parlando del convegno che avete promosso sulla Laguna di Venezia. Che cosa è emerso in questo convegno? Allora, questo convegno voleva essere, diciamo, una riflessione, la promozione di una riflessione a tutto campo intorno agli scenari che la Convenzione di Ramsar potrebbe svelare sul bacino lagunare. È un bacino che sappiamo contribuisce largamente a fare di Venezia uno dei luoghi più magici, ma anche certo, più conflittuali del nostro paese. E quindi abbiamo analizzato un po' di storia, abbiamo guardato dentro la convenzione, abbiamo visto i primi passi che sono stati mossi proprio dalla provincia di Venezia con l'allora assessore e ora deputato Delia Moore, e poi a seguire abbiamo valutato un po' tutti gli aspetti, diciamo, sia degli interventi dell'uomo sulla natura, quindi tutto quello che riguarda le grandi opere, ma anche le attività, l'agricoltura, la caccia, la pesca, e naturalmente abbiamo anche valutato quali possono essere i lacci e i lacciuoli che allo stato dell'arte bloccano questa realtà e quali potrebbero essere le prospettive anche verso un turismo, diciamo, sostenibile e comunque guidato, come tutte le altre azioni che ci sono o che possono esserci sulla laguna, guidato da una grande capacità di essere saggiamente ecologici. Su questo è intervenuto in maniera molto interessante anche il professor Cesare De Michelis, che ci ha obbligati a guardare fuori dal nostro orticello, dal nostro concetto di piccolo e bello, confrontandoci invece con quella che è la realtà a livello globale, per farne un'ottica trasversale a tutte le azioni che potremmo immaginare in questo territorio. Per Venezia, fondamentale, forse è unica, sulla quale quindi ci sono anche, possono pensare a nuove prospettive anche di salvaguardia, quindi non solamente una cosa statica, ma qualche cosa anche in evoluzione. Evoluzione e nel rispetto delle attività dell'uomo, quindi l'uomo deve rispettare la natura e però non può non lavorare nella natura, con la natura, per la natura e qualche volta purtroppo anche contro la natura, come sappiamo. In questo senso, quest'ultima cosa che poi ci lasciamo riguarda questa certificazione data a Coldiretti sugli interventi, diciamo, di Coldiretti Veneto contro l'innalzamento dei livelli di aflatossine nel mais. Anche qui, perché questo riconoscimento? Certo, noi abbiamo, come delegazione Veneto, abbiamo proposto alla Fondazione a livello nazionale di certificare con questo, diciamo, con questo documento che è, come abbiamo detto, non di carattere tecnico scientifico, ma bensì etico, di certificare Coldiretti Veneto. Perché? Perché riteniamo che come associazione degli agricoltori sia stata l'unica che con forza si è posta all'interno della discussione sulla questione dell'innalzamento delle aflatossine, che era stato proposto in maniera così, diciamo, abbastanza superficiale e interessata da altre associazioni, da altre realtà e anche dalla politica, è necessario dirlo. E invece Coldiretti Veneto ha preso una posizione molto precisa scrivendo al Ministero e dicendo espressamente che non è possibile derogare alle ragioni di tutela della salute dei consumatori, e quindi la determinazione dei limiti delle micotossine, delle aflatossine, spetta alle autorità scientifiche, e in questo senso poi il Ministero si è pronunciato. Quindi al valore di questa iniziativa noi vogliamo dare un, così, un riconoscimento, ed è quello della certificazione, e io credo che questa cosa succederà molto rapidamente, già nei primi giorni di febbraio. Sì, se posso spendere solo una parola ancora, noi abbiamo pubblicato il codice 338, che, lo ricordo, risale al 1200, è uno dei testi più preziosi sia culturalmente che spiritualmente per l'intera umanità, perché contiene le più antiche fonti francescane e la prima stesura del Cantico delle Creature. E ricordo anche che la prima copia di questa stampa facsimile è stata donata al Santo Padre. Benissimo. E con questo abbiamo un po' esaurito il nostro tempo, ci ha fatto piacere conoscere anche questa vostra realtà, e quindi vi aspettiamo per altri appuntamenti in trasmissione in futuro. Molte grazie e pace e bene a tutti. Grazie. Vediamo ora alcune notizie e parliamo in particolar modo di apicoltura. Sono oltre 3.600 gli apicoltori del Veneto, dove conducono circa 62.000 alveari. Praticata essenzialmente come un'attività integrativa, visto che l'83% degli apicoltori possiede meno di 20 alveari, l'apicoltura è un'attività comunque radicata e che influenza direttamente le produzioni frutticole e svolge un ruolo rilevante per la salvaguardia ambientale. La Giunta regionale veneta ha adottato il nuovo programma triennale 2014-2016 per l'apicoltura, che ha come obiettivo il miglioramento delle condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti, favorendo quelli di qualità legati al territorio e consolidando la professionalità degli operatori. Sono previste anche azioni per migliorare lo stato sanitario degli alveari, per favorire il popolamento del patrimonio apicolo regionale, nonché la caratterizzazione dei mieli tipici. Sempre in tema di api, parte domenica 24 febbraio un corso di apicoltura in 5 incontri promosso dall'associazione La Biolca, relatore Gianni Stoppa. Il corso, che si tiene presso la sede dell'associazione a Battaglia Terme in provincia di Padova, si propone di sviluppare le basi per un'apicoltura innovativa, rispettosa dell'essere ape, in sintonia con i fondamenti della biodinamica. Idee per il Parco Alimentare Venezia Orientale è il progetto ideato dal VEGAL, gruppo di azione locale del Veneto Orientale, in collaborazione con Veneto Agricoltura, per favorire l'aggregazione dei produttori della Venezia Orientale e valorizzarne le inestimabili risorse. I produttori agricoli, i primi artefici di questo importante tesoro produttivo, sono quindi invitati a un incontro di confronto e valutazione della proposta mercoledì 6 febbraio alle ore 9 presso la sala riunioni di VEGAL in via Cimetta 1 a Porto Gruaro, provincia di Venezia. Un secondo appuntamento, solo su prenotazione, è la visita al progetto di integrazione territoriale agraria di Riva del Garda il 13 febbraio, con partenza da Noventa di Piave. Informazioni e iscrizioni sul sito internet www.venetoagricoltura.org. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.